Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Paar Vorsprung durch Technik. Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schweinhund, Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Benvenuti a questa nuova puntata di Mati FM. Chi vi parla sempre è Claudia Maiti Mauro dagli studi di Radio Kairos in via Casarini. Siamo qui per la seconda puntata e per la seconda volta, anzi terza, la nostra meravigliosa nuova sigla, una nuova interpretazione dell'Inno alla Gioia, questa volta con la voce di Rowan Atkinson, ci farà compagnia per questa nuova stagione di Mati FM, la nona stagione di Mighty FM. La seconda puntata l'abbiamo voluta dedicare ad un gradito, atteso ritorno, ovvero quello dei Mount Kimby from London e Los Angeles. Attualmente il nuovo disco si chiama Love What Survives, esce ancora per la Warp come dai tempi del secondo album, ormai del 2013. Il primo pezzo che lo apre è un omaggio, neanche molto mascherato, ad un pezzo molto antico, perché sono antichi comunque i suoni presenti in questo disco, sono vari e molti quelli più riconoscibili che si possono insomma inchiodare ad un'epoca sono quelli del ritmo motorik, del kraut rock e quelli insomma del post punk. E infatti diciamo che l'ispirazione per questo disco e questo pezzo in particolare è per esempio in un pezzo del 1981 che sentiremo dopo. Questo pezzo si chiama 4 Years and 1 Day, 4 anni e un giorno, e chissà che sia un riferimento insomma al 2013, l'anno in cui appunto sono uscite le loro ultime produzioni discografiche. Questi sono i Mount Kimby e questa è Mighty FM. Buon ascolto. Finisce così il primo pezzo d'apertura di Love What Survives, 4 Years and 1 Day, il cui video è uscito il 26 settembre scorso. Molti video, molti pezzi che hanno sia anticipato che accompagnato questa nuova uscita, ma la carriera discografica e come band, come duo di musica elettronica, è questa insomma la dicitura che si trova sempre relativamente a Mount Kimby, duo di musica elettronica. La seconda cosa che si legge è che sono nati nell'ambito della cosiddetta scena post dubstep. Il gruppo nasce nel 2008, si incontrano Dominic Maker e Kay Campos alla South Bank University appunto nel 2008, e adesso hanno più o meno 30 anni tutti e due, uno viene dalla Cornovaglia e l'altro da Brighton originariamente, si incontrano all'università e cominciano a fare musica in uno studio a Peckham, South London, dove la parte appunto meridionale sotto il fiume di Londra è molto importante per questo momento storico musicale. C'è un grande fermento nella scena anglosassone, soprattutto a Londra e soprattutto appunto a South London. Personaggi come Boreal, Fortet, XX e molti altri musicisti cominciano a fare musica intorno ai 20 anni, come anche appunto il loro coetaneo James Blake, che all'inizio delle loro attività live li accompagna sul palco. Ma la prima produzione, pubblicazione discografica, è un EP che esce il 2 febbraio 2009 per l'etichetta Hot Flash, fondata da Paul Rose, in arte Scuba. Si tratta del Maybe's EP, di cui ci stiamo ascoltando due pezzi, Taps e la title track Maybe's. Come dicevo, vengono radunati nella termine ombrello veramente molto vasto ed indistinto del post dubstep, visto che appunto alla fine degli anni 90 e soprattutto i primi anni degli anni 2000 il dubstep è stato insomma la cosa più nuova e anche eccitante della scena musicale anglosassone. Ma anche già questa prima pubblicazione, Maybe's EP, e lo definirei più ambient, elettronica o sperimentale. C'è certo qualche pezzo di brano con una ritmica pseudo dubstep, voci manipolate, morphed, come si dice, alla Fortet e Burial, e anche già la presenza dei field recordings, cioè suoni di ambienti, rumori. Appunto un debutto e le prime pubblicazioni fino al secondo disco, dicevamo, per l'etichetta Hot Flash di Scuba, che appunto nasce come un'etichetta nel 2003 dedita alla pubblicazione di bass music, adesso invece sempre più techno, è un'etichetta per cui hanno inciso anche George Fitzgerald e Locked Groove. Ma dicevamo di come il primo pezzo di Love What Survives, che abbiamo sentito in apertura, richiami molto, proprio come un omaggio sia per la ritmica Motorik che proprio per il suono del synth in apertura, è un pezzo di un gruppo invece svizzero, erano i Grauzone. Ed è questo appunto il pezzo più famoso della loro discografia, anche perché sono stati attivi veramente solo 2 anni. We'll be right back. Magari questo ritmo non è esattamente motoric, è un po' più rallentato, ma comunque l'impronta post-punk molto presente. Questo pezzo che si chiama Ace Bear, ovvero Orso Polare, il più grande hit di questa band svizzera di Berna del 1981, e un pezzo che è stato anche rifatto dai Nouvelle Vague. E il pezzo dice vorrei essere un orso polare. Dom e Kai si incontrano all'università della South Bank, erano gli anni in cui Dom cominciava così a fare musica, ma non aveva una formazione diciamo molto professionale, mentre Kai, che viene da questo piccolo paesino della Cornovaglia, ha sempre studiato musica, ha fatto parte di band dall'età di 13 anni, ha cominciato a comporre all'età di 16 anni, aveva anche un insegnante di musica che una donna che gli aveva mostrato e rivelato la possibilità della registrazione multitraccia, quindi registrare una cosa, tornare indietro e sovrapporre un'altra registrazione. Si è aperto un mondo, ma hanno iniziato a lavorare insieme perché probabilmente personalmente non c'era né l'esperienza né magari la capacità e la competenza di coprire diciamo diverse aree della produzione, o abbastanza forse idee da mettere in campo, e quindi diciamo che si sono completati nel tempo, hanno avuto proprio un rapporto complementare loro due, e arrivano nell'estate sempre del 2009 alla produzione di un altro EP sempre di 4 tracce che si chiama Sketch on Glass, e ce l'ascoltiamo. Sì, ma che già dalle prime pubblicazioni comincia a includere elementi diversi, su strumenti veri, suonati, la cosiddetta live instrumentation, ed ampliare anche il genere e lo stile con dei rimandi al jazz, al down tempo. Ma noi invece siamo qui per parlare appunto di questo grande ritorno dopo 4 anni, un ritorno molto atteso, ma periodo in cui assolutamente non sono stati con le mani in mano. Diciamo che dopo il tour seguito all'uscita dell'album del 2013 con Spring Faultless Youth erano piuttosto esausti, si sono fermati un attimo, ma già al 2014 erano al lavoro su questo nuovo disco. Infatti alcuni pezzi, dice, giravano da 3 anni, dai, pensavamo che non sarebbero mai stati completati, non sarebbero mai diventati dei veri e propri pezzi, e anzi gran parte del materiale che è finito nel disco a un certo punto del processo era stato scartato, buttato via. Ma c'è uno statement relativo all'uscita del disco, che è stata l'8 settembre come disco di Solo Jesus, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. E nel loro Instagram c'è la foto di loro due proprio con la faccia proprio felice, quasi un'espressione quasi di felicità trattenuta a fatica e condensata veramente in un sorriso, in uno sguardo, non so, quasi commosso, tenendo il disco in mano. Una bellissima foto di Tyrone Le Bon. Poi parleremo anche della collaborazione artistica con la famiglia Le Bon, i filmmaker, artisti, fotografi. E in quel punto dico, è meraviglioso poter pubblicare il nostro nuovo album, una collezione di canzoni che sono formate, sono nate da tante idee nate durante gli ultimi anni sia in studio che sul palco, è registrato e scritto tra Londra e Los Angeles, ed una presenza che ritorna prepotente e che è uno, insomma, dei punti forti di questo disco è la presenza, come già nell'altro disco, in due pezzi, in questo solo di un pezzo, sempre la seconda traccia, Blue Train Lines. That flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Deposit for a wasted life, I lost it with a sweepstakes eye and another fucking fight. A junkie in a queue for the library line, that's another lost sight. A stabbing of his eyes, her veins are now popping like blue train lines. Still popping on the bathroom floor, and not for the frost or what? The mirror thought it saw, he got a clearer thought, and pulled it straight out. You got me jumping from a real safe high. I wanna fool forever if you ain't by my side. I wanna fool forever if you ain't in my life. I guess been eating away when I found her. All drowned in grey, I might have drowned her. I call a plague number, and yeah, I might have seen it all. Inhale, exhale, like never in life before. It's lightly, it's down smoke settled in a fabric of the BME34. Dropping burger crumbs on the CD floor, in the back 12 CD store. Radio rap and the CD dub, and she's filled up on the end, and she still needs more. That dying blood. E la voce, naturalmente, quella inconfondibile di Archie Marshall in arte King Krul, l'abbiamo sentito nella puntata dedicata per Project Cora, perché l'abbiamo visto dal vivo, sta per uscire il suo nuovo album proprio a giorni, chiamato The Ooze. Abbiamo detto, già presente nel disco precedente in due pezzi. E anche qui che parte, questo veramente motoric. Sì, perché questo disco vede proprio la collaborazione delle persone più vicine, dei musicisti più apprezzati, più proprio amici, che le hanno accompagnate dall'inizio, come per esempio James Blake, o che hanno sempre ammirato e che hanno avuto, insomma, dei rapporti anche di amicizia, come quello con Mika Levi, Mika Chu, ne parleremo molto, e poi appunto King Krul, il loro processo di coinvolgimento è non quello di presentare uno strumentale fatto e finito in cui la voce, il cantante intervenga e sovrapponga il proprio contributo, ma proprio una collaborazione che vede la voce entrare proprio, il cantante entrare proprio nel DNA del pezzo, e così è stato con Arci, hanno mandato questo pezzo e tipo alle 4-5 di mattina hanno ricevuto questo messaggio vocale dove lui con pezzo strumentale in sottofondo urlava e cantava quello che poi è diventata questa Blue Train Lines, il cui video stranissimo narra la storia fittizia di due antropologi scienziati che fanno ricerche sull'ultimo membro, storia vera, di una tribù di indiani d'America californiana. Non potevamo non mettere uno dei pezzi nuovi che sta sfornando ultimamente King Krul in attesa dell'uscita dell'album, abbiamo detto il 13 ottobre, prima è uscito Check One, poi è uscita questa che stiamo ascoltando, Dumb Surfer, e proprio ieri è stato presentato il video di ancora un altro pezzo. Tutte le recensioni, le interviste, gli articoli che ho letto su Monkimby si parla molto di questa presenza come non mai di pezzi cantati e di questo suono da band che comunica questo disco, Love What Survives, anche per la presenza di King Krul e James Blake, in questo caso è lui che canta due pezzi verso la fine dell'album, Mika Levi in arte Mikachu and the Shapes a volte, e poi quella che non viene quasi mai invece nominata è Andrea Balensi, autrice e cantante e live vocalist, nel setting live di Monkimby sono quattro, loro due più il batterista, anche quello preso in prestito da Mikachu and the Shapes, ovvero Mark Pell, e poi alle tastiere e alle voci Andrea Balensi, cantante franco-messicana, cui abbiamo trovato poco e vorremmo invece sentire di più, perché abbiamo sentito in una delle trasmissioni radio condotte da Monkimby per l'emittente radiofonica londinese NTS, ma ne parleremo dopo, Dom ha passato dei pezzi nuovi che però ancora non sono stati pubblicati, ma sono molto promettenti, e noi l'abbiamo visti dal vivo Joanna al Lisboa Dance Festival lo scorso marzo, proprio alla vigilia dell'uscita del primo singolo e video che ha anticipato il disco, ovvero ad aprile è stato il primo pezzo cantato da James Blake. Ma per esempio appunto ho trovato anche che il pezzo Blue Train Lines cantato da King Krul è cantato da loro, fatto dal vivo già nel 2016. E andiamo avanti parlando della carriera precedente a l'uscita di questo terzo disco. Siamo arrivati al 2010, quando arriva il tanto atteso, già, perché diciamo che questi due primi EP, Mavis e Sketch on Glass, avevano creato abbastanza aspettative, e esce Crooks and Lovers nel luglio 2010, sempre per Hot Flush. E adesso questo primo pezzo che ci ascoltiamo è l'unione di due pezzi, si tratta di Blind Night Errand più Mayor, che poi è stato anche, sono poi i singoli ufficialmente tratti da questo disco, per un'immagine e una e dei video che hanno visto sempre la collaborazione della famiglia Le Bon nella figura di Tyrone Le Bon, autore dei video e della copertina del disco Crooks and Lovers. Questo disco i suoni sono molto più vari. Come dicevamo, i Field Recordings, c'è un pezzo Field che ha un suono della chitarrina sgangherata all'amica Chu, insieme a suoni più dance, il bass music, ma sempre molto, come si dice, left field, cioè un po' strani, un po' lontani da qualsiasi genere che insomma è difficile da definire. E questo pezzo qui, Major, che questo sperimentale, spezzettato, singhiozzante, ma appunto parlando di post-punk, parlando di new wave, parlando di questi nuovi suoni che hanno trovato molto spazio all'interno del nuovo disco di Mount Kimby, questo pezzo strumentale Audition viene paragonato ai Cure epoca Pornography, questa ritmica così tipo l'inizio di A Forest, perché appunto le presenze vocali che sono così importanti in questo disco vengono alternate dalla presenza di pezzi strumentali, e questo fa proprio come è stato definito un viaggio cinematico, quello che ho pensato anch'io, nel senso che è un'alternanza, una combinazione creata molto bene, quasi un pezzo da luogo all'altro, sembra quando assisti a un film che c'è una scena parlata con un dialogo e poi ci sono delle solo scene atmosfera senza nessun dialogo, magari accompagnato da una colonna sonora. Insomma, questo è il viaggio in cui ti accompagnano i Mount Kimby, ed è molto anche importante, consigliato anche da delle recensioni che ho letto, ascoltarlo in loop, quasi le ultime note dell'ultimo pezzo si ricollegano alle prime note del pezzo che lo apre. stato veramente molto bello poterli vedere dal vivo. Torneranno, mi pare, verso la metà di settembre a Milano. Eh sì, settembre, certo, novembre. Ritornando allo statement pubblicato sul loro Instagram, loro scrivono: abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con persone fantastiche con questo disco, Archie Marshall, Mika Levi, James Blake, Andrea Balenzi, sono tutti artisti da cui prendiamo ispirazione ed energia e hanno aggiunto tanto colore a questo disco. Dall'altra parte dello studio i tecnici di Lip Harris e Andy Ramsey sono stati coinvolti di nuovo, sempre generosi con le loro idee e consiglio lungo il cammino. Grazie davvero tanto a tutte le persone che hanno fatto di questo disco quello che è. E poi c'è un altro pezzo in prima persona, non sappiamo quale dei due, Dom o Kai, abbiano scritto questo pezzo. Non posso credere che siano passati 4 anni da quando è uscito il disco scorso. In molti sensi sembra quasi una vita fa. Sono molto toccato, mi sento molto umile per aver ricevuto un continuo appoggio ed aver avuto lo spazio che ci è stato dato in questo periodo. Infatti dicono che non c'è stata assolutamente nessuna pressione né da parte della Warp né da parte di nessuno per mettersi al lavoro su questo disco, e anzi si sono quasi imposti. Però anche con il fatto di raggiungere i 30 anni sono stati molto più rilassati, hanno lasciato andare molto il controllo, hanno tolto più che aggiungere, si sono concentrati sul ritmo motoric. Addirittura Kai all'inizio voleva che questo ritmo apparisse in tutti i pezzi, poi non è stato così, ma poi fondamentalmente si sono concentrati su una strumentazione abbastanza ridotta, su due sintetizzatori vintage, ma ne parliamo dopo, perché adesso è arrivato il Jewelry Mix, ovvero il mix di alcuni dei pezzi, tutti veramente molto belli, del debutto di Mika Chu and the Shapes, ovvero Mika Levi, era il 2009. And the Shapes, ovvero Mika Levi, classe 87, quindi sono praticamente tutti coetanei, in attiva dal 2006, e questo era il disco d'esordio, e questo Golden Phone, questo pezzo qui è proprio il primo singolo del 2008. Una musicista, anche lei londinese, che ha cominciato a, anzi no, del Surrey, che ha cominciato a suonare all'età di 4 anni, figlia di due musicisti, che ultimamente sta facendo apprezzare molto come autrice di colonne sonore, per esempio per Under the Skin di Jonathan Glazer e da ultimo anche per Jackie di Pablo Larraín. Penso di averli visti a Bruxelles quegli anni lì, mi ricordo che ci piaceva tantissimo tantissimo questo disco. Pezzi brevissimi, strani, sgangherati, sghembi, come amo dire. Questo invece è Tammy Well, sempre tratto da Jewelry, anche se successivamente è stato un altro disco, Never, con il gruppo Mika Chun The Shapes, poi in mezzo alla colonna sonora di Under The Skin nel 2015, Good Sad Happy Bad, che è il nome che loro hanno dichiarato di voler assumere, non più quindi Mika Chun The Shapes ma Good Sad Happy Bad. E questo perché l'abbiamo messo appunto come anticipazione al pezzo cantato da Mika Levi, ovvero dopo il primo video anticipato, ma nella tracklist viene dopo, quindi noi siamo filologicamente corrette, quindi seguiamo la tracklist del disco. Diciamo dopo il primo video e singolo del pezzo, del primo featuring di James Blake, il secondo a maggio è stato Marilyn, il pezzo composto insieme da Mika Levi e Mount Kimby, e con un video diretto da Marc Le Bon, fotografo di moda, che insegna infatti fashion photography a London Fashion College, qualcosa del genere, parte di Tyrone e Frank, invece responsabile di diversi video di quest'ultimo disco e delle foto promozionali, ma nel cui video invece appare lo stesso Frank. Questa è Marilyn. Molto leggero, molto ottimista, loro dicono che hanno sempre ammirato Mika Levi e che amano il suo modo leggero di vedere le cose. Questo pezzo è semplicissimo, ha questo suono, a me ricorda un po' l'incedere, un po' Tears for Fears, e poi ci sono questi ritmi africani, questo suono tipo di kalimba marimba, perché comunque c'è stata un'influenza dovuta all'ascolto di musica africana, sempre grazie alla loro attività di conduttori radiofonici. E una recensione che ho letto dice: sembra quei suoni a cui si sono rivolte molte band della rap trade dei primi anni 80, dopo che hanno lasciato insomma le chitarre del post-punk e si sono date delle ritmiche un po' più esotiche. Come dicevo, adesso non è possibile perché alterniamo altri pezzi a quelli del disco, ma ascoltandolo veramente sente come la coda di un pezzo si colleghi proprio in alcuni casi in modo perfetto con l'inizio del pezzo successivo, e lo è anche tra, questa cosa succede in modo particolare tra Marilyn e il pezzo successivo SP12 Feet, ma non succederà così, sia perché adesso dopo Marilyn mettiamo un remix che è stato pubblicato qualche mese dopo, credo sì a luglio, dopo l'uscita di questo video, questo singolo, e in entrambi i casi, anche del pezzo precedente, si tratta di digital release, anche se Marilyn è stato anche pubblicato in cassetta, dove la B-side è appunto il pezzo uscito per primo, cantato da James Blake, ma appunto nell'estate è uscito anche questo Marilyn Remixes, è un radio edit, è una versione più estesa ad opera di Palm Strax. Producer e DJ londinese al secolo J. Donaldson, 26 anni, adesso di base a Berlino, molto apprezzato. E ha riportato i Monkimby sul dance floor da cui si sono allontanati, anche se comunque ascoltando tutta la loro produzione non è che hanno mai fatto dei pezzoni da ballo. Album Crooks and Lovers del 2010 c'era qualche pezzo più ballereccio come quello che abbiamo ascoltato prima, Blind Net Errand, e adesso ci ascoltiamo altri due pezzi sempre da quel disco, Before I Move Off e Carbonated, che anche grazie al video diretto da Tyrone Le Bon è entrato nell'immaginario dei millennials. Cioè, sì, dei ventenni di allora, diciamo. Dom e Kai parlano molto del fatto di aver raggiunto i 30 anni e di avere una prospettiva diversa sulle pressioni anche come artisti e sulla vita in generale, il fatto di aver perso insomma quell'irrequietezza che ti portava magari a fare tante cose o uscire tanto per una vita più calma, più ritirata, e anche se dice che insomma adesso per riprendersi da una sbronza ci vogliono 3 giorni invece di una mezza giornata, ed essersi liberati con questo disco anche delle pressioni esterne, perché anche quando sei giovane magari senti di più il fatto che dovresti fare certe cose anche per compiacere gli altri. Invece per fare questo disco si sono liberati di un sacco di pressioni, di ansia, e come dicevamo dal punto di vista tecnico hanno deciso di concentrarsi su alcuni ritmi. Hanno sempre avuto fin dal secondo album una fascinazione particolare per le drum machine anche vintage, ma adesso appunto sostituita da un ritmo prodotto in carne e ossa come quello Motorik, ecco che entra Carbonated, e poi di concentrare la costruzione dei pezzi su due synth vintage, ovvero il Korg MS-20 e il Korg Delta, dicendo: tanto questo strumento va bene come qualsiasi altro strumento, va bene questo, se una canzone è buona è buona, e quindi a posto così. Riguardo l'uscita del disco, Dom o Kai scrivono: e non vorrei mai vedere il considerare il fare musica come un lavoro, e per me ha senso continuare a farlo solo finché noi siamo così interessati, sorpresi ed eccitati come eravamo quando abbiamo iniziato. Per fare questo dobbiamo cercare di esplorare nuove idee e modi di creare, che sicuramente comporta molti dubbi e incertezze lungo la strada, ma è questo quello che rende le cose interessanti, e non potremmo essere più eccitati di condividere con voi e presto di eseguire queste canzoni in giro per il mondo. Questo, sempre questo suono un po' esotico in marimbas si collega perfettamente con Marilyn, è uno degli intermezzi strumentali che punteggiano questo disco. Si tratta di SP12 Beat, forse un titolo di lavoro, no? Un titolo provvisorio che si mettono, allora dicono che comunque anche loro non si concentrano neanche molto sui titoli e sui significati. Anche il titolo del disco è arrivato tardi, però il significato ce l'ha ed è molto bello secondo me. Di questo pezzo esiste anche una seconda parte messa come 12ª traccia nell'edizione giapponese. Non si capisce perché le edizioni giapponesi devono avere sempre dei pezzi in più, adesso è sempre un'edizione speciale. SP12 Beat Part 2, l'avevamo messa insieme a questa part 1, quindi, ma poi l'abbiamo eliminata anche per motivi di tempo e anche perché comunque non aggiunge molto né al pezzo né al disco. Potente questo ritmo così concitato che trova le sue radici nel post-punk. poi passa e ritorna questo suono un po' dub. Bade uyo angana nyere fanya niede bade nuyo janti yere fala dunu ya sikimano janti yere faga nyani siye. Appunto, parlando dell'influenza anche della musica africana che hanno ascoltato grazie al loro lavoro come live radio broadcasters per la NPS online radio basata a Londra ma che trasmette anche da Los Angeles, da Manchester e da altri posti, da Shanghai. Ho scoperto questa bravissima musicista e cantante maliana del Mali, classe 68, Umu Sangaré, interprete principale del genere definito Wassoulou. Sappiamo comunque, conosciamo già la fascinazione dei musicisti inglesi, in particolare Damon Albarn, per la musica del Mali, e questo qui è un pezzo tratto dal suo nuovo album. L'album si chiama Mayonga, questo pezzo si chiama Yere Faga e vede la partecipazione di un grosso nome della musica mondiale, ovvero il batterista nigeriano Tony Allen, uno dei fondatori dell'Afrobeat, storico batterista e direttore musicale di Fela Kuti, che poi in anni recenti appunto ha anche suonato con The Good, The Bad and The Queen, proprio con Damon Albarn, Paul Simonon e Simon Tong. E Umu Sangaré, con molte difficoltà perché diciamo che l'interprete era scarsissima, ha partecipato ad una delle trasmissioni delle cosiddette residencies radiofoniche che hanno avuto in due periodi diversi, nel 2015 sempre per diciamo quattro episodi di due ore, e poi quest'anno nel 2017, proprio a cavallo dell'uscita del nuovo disco, hanno voluto ospitare in studio tanti amici e collaboratori, infatti James Blake e Kim Krull ci sono stati, in alcuni casi Dom conduceva da solo a Los Angeles, in alcuni casi da solo Kai a Londra, in compagnia di un cartonato, una sagoma, grandezza naturale del proprio partner mancante. E poi il pezzo che ci abbiamo attaccato insieme di Umu Sangaré, veramente bello, veramente belli anche molto i video, è Kamelemba. Questa trasmissione abbiamo selezionato alcuni degli ospiti e autori di pezzi che avevamo già visto nel sito di Mount Kimby, c'è una playlist di Spotify che dice questa è la musica che ultimamente stiamo ascoltando in studio, e molti dei nomi coincidevano, ma invece che ne so di mettere The Warpaint che amiamo tanto ma che abbiamo sentito tante volte, ho scoperto Umu Sangaré, ma poi anche altri nomi che non sono passati tanto qui a Mighty FM. E questo appunto è Umu Sangaré. tratto da My Younger di quest'anno, ma siamo tornati a Love What Survives. Ama quello che sopravvive, quello che rimane di te dopo che perdi delle persone, delle cose, anche dei lati di te stesso, ma crescendo poi trovi più a tuo agio nella tua pelle ed impari ad amare quello che sei diventato e che sei veramente. Quest'altro pezzo è sempre un pezzo cantato, vede la foto, sì la foto, la voce di Andrea Balenzi, la live vocalist e tastierista della live di Mount Kimby Live Band, per un pezzo che ricorda molto la sua performance vocale, anche la canzone in sé ricorda molto gli Stereolab di Laetitia Sadier e della compianta Mary Hansen, quanto l'altrettanto compianta Trish Keenan dei Broadcast. Anche questo molto luminoso, molto leggero, anche questa è la caratteristica di questo disco. E il pezzo si tratta You Look Certain, I'm Not So Sure. Bello da sentire, un disco che personalmente mette di ottimo umore, mi gasa anche questi passaggi di un po' di ritmo, di tempo. Ottimismo, positività, leggerezza, ama ciò che sopravvive di te dopo gli eccessi, gli errori, i condizionamenti della giovinezza, ama il te che rimane, la parte vera. E si sente con molto l'influenza pop, della struttura pop, ma tutto in modo molto rilassato, sono molto lasciati andare, hanno mollato la presa per semplificare il più possibile. Perché l'idea di base è scegliere un ritmo base che potrebbe anche andare avanti all'infinito e poi riempire lo spazio con la melodia. E questo è stato anche, diciamo, favorito dal coinvolgimento di amici e colleghi musicisti, perché poi loro dicono, sì, è ovvio che alla fine finisci per fare le cose con i tuoi amici musicisti, con quelli con cui tu parli di musica, quelli che ti danno i feedback, e anche l'influenza degli ospiti che hanno avuto in radio e che gli ha dato appunto più sicurezza, meno ansia, meno preoccupazioni, e questo senso di comunità attorno al disco e a Mount Kimby come progetto, quasi come band. E uno dei nomi che è stata ospite delle musiciste, che è stata ospite in una delle trasmissioni di questa Radio Residency è Caitlin Aurelia Smith. L'abbiamo già sentito solo un brano di un pezzo molto molto lungo per la puntata dei pezzi migliori per Pitchfork. Il disco si chiama Years, è del 2016, anche questo pezzo molto molto bello, anche il video, e si tratta di Arthropoda. Thank you. il fatto che dopo il disco del 2013 Don Maker si sia trasferito a Los Angeles per vivere con la sua fidanzata, ha fatto sì che si riprendesse, si conoscessero meglio, si frequentassero dei musicisti di base a Los Angeles come Warpaint e Catherine Aurelia Smith, ma anche che si riprendesse la collaborazione con il vecchio amico James Blake, anche lui ora di base a Los Angeles. Ed ecco che arriva il pezzone, insomma, che li ha definiti negli ultimi anni e che noi siamo stati felicissimi di sentire e ballare dal vivo, ovvero quella Made to Stray, che segnò il passaggio alla Warp nel 2013, prima pubblicazione, primo singolo in anticipazione dell'album. Era la primavera del 2013 e Made to Stray e Blood and Form anticipano Cold Spring Faultless Youth, uscita a maggio, seguito poi da una serie di remix, ovvero CSFLI remixes uscite nell'ottobre 2013, che conteneva diversi remix del pezzo cantato da King Krull, ma soprattutto un remix di DJ Kose. E noi, per fare qualcosa di diverso, visto comunque questo pezzo l'avevamo già sentito nella trasmissione dedicata al Lisboa Dance Festival, ovviamente insieme a Slow, uno degli altri pezzi molto molto belli dell'album, ma l'abbiamo voluto proprio sovrapporre al remix di DJ Kose. E questo appunto è stato il successo più grande finora per i Moonkimby, Made to Stray, a cui abbiamo voluto aggiungere il remix di DJ Kose. Che appunto ha anticipato l'uscita di Cold Spring Faultless Youth, acclamato dalla critica, e che vede appunto la presenza di strumenti classici come basso e chitarra in pezzi come So Many Times, So Many Ways, Breakwell invece un pezzo più dilatato, atmosferico, anche un po' ambient, che poi nell'ultimo minuto, ma lo sentiremo dopo, diventa proprio un pezzo indie pop da manuale. E poi, come avevamo detto prima, due pezzi con la presenza di Archie Marshall, King Krul alla voce, You Took Your Time e Meter Pale Tone. Ecco che sfuma il remix di DJ Kose e torniamo ad un intermezzo strumentale di Lot What Survives, molto delicato, e per essere così delicato ha un nome che non è delicato, ovvero Poison. E ci sembrava bello attaccarci. Julia Holter, anche lei ospite in una delle trasmissioni da Los Angeles, e ce l'abbiamo messa perché ci piace molto, perché ultimamente ha pubblicato un altro disco, In the Same Room, che in realtà sono versioni live dei suoi pezzi insieme alla sua band, Corey Fogel, Devin Hoff e Dina McAbee. L'abbiamo vista l'anno scorso al Primavera di Porto, ma potremo rivederla il 2 dicembre. Anche lei sarà al Locomotive di Bologna, perché tutti quest'inverno, autunno-inverno, suoneranno al Locomotive di Bologna. Abbiamo voluto mettere uno dei nostri pezzi preferiti, il primo che abbiamo conosciuto ed amato. Abbiamo dedicato una nostra puntatona a Have You in My Wilderness all'inizio della scorsa stagione, e ci è piaciuta questa versione perché si sente la spinetta molto più presente. È Feel You. sempre ci lascia, Feel Good di Julia Holter, che ripetiamo suonerà il 2 dicembre prossimo allo Comedy qui a Bologna, questa versione dal vivo di questa nuova sublabel della Domino, Domino Documents, dedica appunto a questi esperimenti per vedere come i pezzi vengono trasformati poi dopo che esce la versione sul disco, poi facendo tour eccetera, come si sviluppano, come vengono poi modificati ed esibiti nel tempo. Ma appunto torniamo al pezzo che arriviamo finalmente, anzi al pezzo che ha anticipato l'uscita di questo disco, ovvero uno dei pezzi cantati da James Blake. Si tratta di We Go Home Together, sempre con un video diretto da Frank LeBron. Questo pezzo, quasi la voce più disperata, strozzata, quasi appunto al limite del singhiozzo. And it's the best it could have been. Come diceva Mount Kimby, non arrivano a presentare uno strumentale già dove la voce ospite canti sopra e basta, ma i pezzi nascono insieme, quindi è chiaro che l'impronta di James Blake, che loro considerano essere arrivati un po' allo stesso punto anche anagraficamente come loro, di essere libero di esplorare i propri suoni, il proprio universo sonoro, la libertà nella propria mente, e probabilmente in questo pezzo hanno lavorato insieme Dom e James a Los Angeles, e poi questi viaggi ripetuti tra lo studio di Tottenham di Londra, che nel frattempo che Campos ha messo in piedi a Londra Nord, e poi invece dei viaggi a Los Angeles per mettere insieme le varie idee. Le varie idee musicali che poi sono diventati i pezzi di questo disco, e non potevamo non mettere James Blake da due pezzi che ci fanno molto piangere, il suo ultimo album The Color in Anything del 2016. It's a strange ball that we lost for. Every now and then. Every now and then. Every now and then. Every now and then. When I see. Fatto un po' di tagli e cuci per questi pezzi e abbiamo eliminato l'intro che vedeva la presenza di Frank Ocean, e diciamo che anche James Blake si è fatto diversi amici sulla West Coast. Questo pezzo Modern Soul è assolutamente meraviglioso. Ma appunto dicevamo la presenza doppia di James Blake verso l'ultima parte del disco, quasi a celebrare questa amicizia di lunga, lunga data. Ce lo teniamo per leggere i nostri appunti di studio matto e disperatissimo. Parlavamo anche dell'influsso del pop, loro dicono il pop attuale è più strano della musica che facciamo noi, perché quando ascolto la radio mi sembra di sentire 4-5 pezzi contemporaneamente, invece per noi l'idea del pop è un suono semplice e diretto, scegliere l'idea più semplice invece di quella complicata, insomma una musica più concisa, e poi sentirsi anche più a proprio agio a 30 anni, sentirsi liberi come James Blake, riconoscono loro, fare le proprie cose senza l'ansia per l'approvazione altrui. Certo, per fare questo disco c'è stata qualche falsa partenza, molte cose dicevamo erano state prima scartate, poi rimesse nel disco, questa fascinazione per le drum machine vintage dove non c'è molta possibilità di manipolazione, sempre per questa tendenza alla semplicità. Molto grande ed invece il suo contributo nel disco di Mount Kimby, anche se hanno dichiarato praticamente la musa principale per la loro musica è praticamente King Krull, qualsiasi cosa che viene da lui per loro è veramente oro. Ma per dire la verità, dei suoni già presenti in Cold Spring Faultless Youth, per esempio questo che è il pezzo di apertura Home Recording, sembra quasi l'inizio, sembra quasi uno stacchetto di un telefilm poliziesco anni 70, si chiama Home Recording, e l'abbiamo voluta mettere con quel pezzo che dicevamo prima, che sembra molto ambient e poi esplode in un pezzo indie fatto e finito, ovvero Breakwell. come si avvicinassero sempre più alla forma canzone invece di avere voci spezzettate e campionate tutto lo stile dubstep. Altre articoli, interviste che ho letto, ID parla di influenza dei suoni medio orientali africani, che il titolo appunto significa che le cose cambiano e va bene così, qualcosa resta, quello che ti fa alzare la mattina, nel bene e nel male c'è anche la tristezza, cose che hanno voluto sottolineare, che c'è anche tristezza nella perdita di qualcosa col passare del tempo, ma appunto va bene così. C'era nessun concetto di partenza per il disco, solo il desiderio continuo di imparare e metterci dentro quello che si era imparato attraverso le esperienze precedenti, anche se dicono che non è che una volta che hai fatto un disco, quando fai quello successivo non è assolutamente più facile, ma appunto mettere quello che si è imparato facendo i dischi precedenti ed usarlo però nel modo più naif possibile, non sedersi sulle vecchie abitudini, ma soprattutto fare quello che vuoi piuttosto che fare quello che tu pensi dovresti fare, che gli altri si aspettano che tu faccia, liberarsi da ogni ansia, alla fine ce l'hanno fatta. Sessioni concentrate a Los Angeles e a Londra, e poi le pause tra queste sessioni concentrate, anche il tempo del viaggio, mi ha dato la possibilità per acquisire prospettiva e quindi avere anche una visione un po' più chiara su quello che stavano facendo. Ed ecco l'esplosione. Anche questa voce sarà arci. E mentre Cold Spring Faultless Youth suona come un disco incompleto, per loro invece lo What Survives è completo, è intero, parla del venire a patti con se stessi e le relazioni e i passaggi che hanno modellato il tuo essere, è proprio la manifestazione musicale del cambiamento che inizi a vedere in te attorno ai 30 anni, appunto meno eccessi, vita più tranquilla e sentirsi proprio a proprio agio nell'invecchiare. quando cominci ad accettare totalmente chi sei, se ti scrolli di dosso la pretenziosità e quelle parti di te che mantenevi per compiacere gli altri, diventi il vero te. Quello che stiamo ascoltando è uno dei pezzi più elettrici di Lost Wives, si tratta di Delta, forse un tuo riferimento al sintetizzatore, e per un video sempre a regia di Frank Le Bon, diffuso il 31 agosto. Fatto di sentirsi a proprio agio anche con l'invecchiamento non è solo a livello personale ma anche a livello di band, perché anche con i Mountimby loro pensavano di dover incontrare insomma delle aspettative, e invece se te le scrolli di dosso quello che rimane è quello che davvero ti nutre, ti alimenta, ti rafforza e ti consolida. Ami ciò che sopravvive. Poi un'altra cosa che si legge subito in tutte le recensioni, parlano di questa collaborazione, questa composizione del disco sulle due sponde dell'oceano Atlantico, in realtà uno sta sulle sponde dell'oceano Pacifico, in mezzo c'è un continente che si chiama, un paese che si chiama Stati Uniti d'America, ma vabbè, loro dicono sì, questa è una storia carina che magari comunicati stampa mettono e sembra simpatico e curioso. Riproporre questo fatto, questa particolarità che però per noi non ha cambiato molto nel nostro modo di comporre e di produrre, perché abbiamo sempre lavorato individualmente per poi mettere insieme le cose che avevamo prodotto, e così è stato anche per questo disco. Ma dicevamo che nelle puntate della residency radiofonica per la NTS uno degli ospiti è stato anche Actress. Darren J. Cunningham, all'attivo 5 album dal 2008 per Ninja Tune, l'ultimo AZD, e ci ascoltiamo uno dei pezzi mandati in trasmissione, ovvero X22RME, non so se si possa leggere in qualche altro modo, più Runner. Ma dicevamo, il fatto di essere distanti e che le sessioni in cui lavoravano insieme avessero ovviamente un intervallo di tempo tra l'una e l'altra, ha permesso a Mount Kibi di fare il punto sul loro approccio al suono e alla scrittura. Hanno spogliato il suono del disco, appunto fondato solo praticamente sul suono di due sintetizzatori, ottenendo così un suono così luminoso. Quindi se Cold Spring Suite può essere considerato lo yin, sicuramente lo What Survives è lo yang, più libertà e leggerezza per un suono più pulito. Ma questo processo, insomma, di sgrossamento non è stato forzato, è stato un processo naturale. E poi c'è questa inclinazione naturale verso il pop, dicevamo, e fa un paragone Kai con il noise, che invece ha una serie di regole da seguire, mentre la musica pop attualmente è più strana e interessante, nel senso che pur dovendo operare all'interno di certe strutture cerca sempre di sovvertirle, gli va contro, push against, dicono loro. Non possiamo nominare Metacritic, la fonte di tutte le recensioni dei media di settore, in cui votazioni, insomma, vengono aggregate in un voto generale, che per questo disco vede un bel 82, partendo dal 10 di Decini, presa più allentata, miriadi di mondi musicali esplorati da compari talentuosi, pezzi diversissimi che però convivono nello stesso disco. Mount Kibi hanno il dono di evocare la sensazione del mondo che ti scorre accanto mentre tu sei perso nelle tue cuffie, ed è questa recensione che dice che si consiglia l'ascolto del disco in loop, perché c'è una logica nel caos gentile di Mount Kibi. Poi Tiny Mixtape 9, Post Punk with Electronics, progressione musicale che reinterpreta il revival post-punk, ma in realtà non è mai morto, creando qualcosa di nuovo. Pezzi di Actress che ci siamo tenuti in sottofondo, torniamo a Lot What Survives, un pezzo che si chiama TAMED, come acronimo con le lettere in maiuscolo, che quindi si leggerebbe Tamed, che significa domato, addomesticato, ma in realtà sta per un appello, un'invocazione che cantano tutti insieme, credo, o soprattutto si sente la voce di Don Maker, che assomiglia molto a quella di Damon Albarn, ovvero significa Think About Me Every Day. Sono l'oligarchia della malinconia britannica, ed è questa la sensazione che pervade il disco dei Mount Kibi, declinato con la spericolata sincerità di Kim Hill e con la sublime infidezza di James Blake. Poi Pitchfork 84 Best New Music, Mount Kibi bastian contrari fin dall'inizio, band vera che, partendo dai blips, i grips e gli scaps, cioè i suonini elettronici singhiozzi di suoni alla Bozzofiana del Quartet, adesso invece suonano, hanno un suono post-punk e crowd rock in cui mischiano i circuiti col sudore. Meadows 80 post upstep che poi ha dato luogo a questo internet youth che già percorreva sentieri più avventurosi concentrando elementi post rock, drone, music concreta, R&B e hip hop senza invece per comunque perdere il legame con l'IDM, mentre What Survives non ha solo l'influenza del crowd rock ma del passato, prende anche l'approccio post-punk. Però questa varietà di stili invece è stata criticata da altre recensioni come quella dell'Observer, che invece comunque gli dà sempre un 6. Non esistono voti inferiori alla sufficienza, anzi sono quasi tutti degli 8. Transizione e Progressione è un disco pieno di onestà musicale, artistica, integrità, diremmo noi, che merita un'attenzione totale, cioè un ascolto non distratto da altro. Nella permanenza, nella vita a Los Angeles, riprendendo i contatti con James Blake, Don Baker nel frattempo si è trovato anche a produrre un pezzo per Jay-Z. Già James Blake aveva partecipato a due pezzi di Lemonade di Beyoncé, e invece Don Baker ha coprodotto un pezzo che poi in realtà è una bonus track, non è proprio una traccia ufficiale dell'ultimo album di Jay-Z, Four, si chiama Manifest. Healing in real time. Saw him cry to resentment, that was real crime. Bonnie and Clyde beans, we hold it down. Have we spread the band, that be the real crime. Got through it, God bless, times two with it. New Bel Air States with four pools in it. I told my bro, you gotta go home over Vino. Good fella, don't gamble with your life, this ain't casino. Cost them $2 million plus the child support. We'll get the money back, but not the child support. It's getting too late, we can't afford mistakes. You would have broke me down had you got away. It would have broke me up, you took my child away. Poi nell'altra recensione che abbiamo letto, Resident Advisor 80, orecchio acuto per melodie e hooks, non sono tanti ritornelli, infatti le frasi melodiche sono quelle che ci entrano nell'orecchio, grande ispirazione provenienza dai collaboratori, sono tutti artisti che rappresentano l'avanguardia del post anglosassone un po' più strano, che ha le sue radici a Londra. Company for the someone. I was many faces, at least I was willing to change. I was working hard the way I was. Ciao. Dopo tante lodi anche da Accelerator 8, Guardian, Mojo, Mixmag, ci sono anche delle critiche, sebbene vi dia a What Survives un 7,5, Lady Club dice che insomma sembra che Emma e Kimby abbiano trovato il loro scopo come backing band per i vari cantanti ospiti. album vivace, spesso delizioso ma un po' indistinto, come se l'identità dei Mount Kimby, qualunque sia, venga coperta da quella di chi si mette davanti al microfono. Il risultato è più una playlist curata con maestria, tipo Late Night London Mix, il cui filo conduttore è la generale atmosfera e i collegamenti biografici, piuttosto che invece un'opera d'arte, insomma, a sé, indipendente. Baby, I get you. Let's go through this thing. Come out stronger. The golden journey. Broken is better than new. That's Ken Sukori. You find China. I'm a ball and ball in the China shop. I promise to repair with gold each bowl I drop. Be grateful for whatever comes, because each has been sent from a guy from beyond. That's what Rumi say. Never go to bed mad. That's what my Umi say. It always took her less to say more. I Soldoni e Big Club dice è stato più un passo di lato con passi in avanti. Mount Kimby hanno un ottimo gusto, ma in Soldoni speriamo che il prossimo disco sia meglio, ma non è quello che pensiamo noi. Questo disco, veramente ascoltando in loop, è molto gratificante, molto esaltante, viene anche definito uno slow burner, un disco che cresce, insomma, ad ogni ascolto. Dopo un po' proprio i suoni ti entrano dentro, e questo disco si conclude con l'altro featuring di James Blake. È un pezzo adattissimo proprio come chiusura del disco, secondo me. Si chiama How We Got By. Pezzo che ovviamente riporta i suoni dolenti di James Blake. Looking out the door is how we get by. When we get it wrong, looking out the door is how we get by. When we get it wrong. Se la voce di James Blake vi piace invece che darvi fastidio, in questi pezzi cantati per i Mount Kimby sento proprio che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Poi un'altra cosa, i Mount Kimby, dice Mix Meg, danno il meglio quando evocano una piacevole malinconia con Carbonated, The Betsy Stray, la stessa sensazione di comfort che dà a mettersi una felpa calda dopo una nuotata nell'acqua fredda. Con un nome come Mount Kimby tutti pensano ad un'ascesa, ad un posto, a una montagna. In realtà, come anche ho scritto nella presentazione, Mount Kimby è un posto che, dicono loro ovviamente, un posto che è dentro ciascuno di noi, dove gli autobus arrivano in orario. Come dice anche Mojo, un disco grezzo, si ritrova spesso questo aggettivo uo, che significa grezzo ma significa anche puro, pulito, però allo stesso tempo caldo e rassicurante, ovvero comforting, che io sintetizzerei nell'espressione un disco che fa stare bene. E con questo Claudio Mighty Mau saluta, e ci ritroveremo chissà, forse la prossima settimana no, ma le prossime settimane. Buon ascolto su Radio Kairos.